Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Vi invio una serie di spunti di riflessione. Giustizia. Come si fa a credere alla giustizia, visto il caso Parmalat, assoluzione Bank of America Banca? Probabilmente per Alitalia sarà lo stesso. Fiducia nella politica. Mi pare che, nonostante tutto quello che si sente, o si è sentito e visto, nessuno dia mai le dimissioni. Investimenti. Che fare dopo Parmalat, Alitalia, Cirio, Lehman? Fondi che non si sa cosa contengano. Per non parlare di quello che ti raccontano le banche. Tutela dei cittadini. E la class action? Il primo governo Berlusconi aveva detto che era stata avviata, ma non era ancora operativa. E oggi si dice fra 6 mesi, forse. Il petrolio diminuisce. La benzina, il diesel, il metano continuano ad aumentare. Prezzi? Tutti ne parlano, ma nessuno fa niente. E nonostante il costo delle materie prime sia precipitato, i prezzi aumentano. C'è qualcuno che sta diventando ricco alle spalle dei cittadini. Il canone TV aumenta e tra un po' saremo tutti costretti a comprare il decoder per il digitale terrestre. Telecom ha aumentato le tariffe, il bollo è aumentato, le poste hanno aumentato il costo dei francobolli, gli atti giudiziari sono aumentati. Trenitalia ha aumentato il prezzo dei biglietti, è aumentata l'IVA su Sky. E poi ci sono gli aumenti dei generi alimentari, dovuti all'aumento dei costi di trasporto. Il governo ha promesso riduzioni di gas, luce, tassi, ma non farà niente, perché diminuiranno per moto proprio. Tutte le iniziative volte a derogare soldi aiutano solo quelli che sono ai limiti di sopravvivenza, non chi ne ha bisogno. Si stanno aiutando le aziende e le banche in tutti i modi possibili. Non si sente parlare di punizioni o dimissioni da parte di chi si è mangiato o fatto mangiare una marea di denaro solo per speculazione. Dove trovo il motivo per avere fiducia? Dire che bisogna avere fiducia a tutti i costi, secondo me, provoca l'effetto opposto. Andrea, da Mestre. La mia fidanzata mi dice in un orecchio: non spendere, è peccato. La mia fidanzata più vecchia è la migliore di Piazza Bra. Con queste parole, all'inizio del 1900, Berto Barbarani, amato poeta dialettale veronese, nella poesia Santa Lucia, Santa Lucia, riportava ironicamente un aspetto tipico di noi veneti. Amanti dei piccoli piaceri della vita, ma parsimoniosi, attenti a non spendere, a non buttare la roba, a tenere da conto. Erano altri tempi. Eravamo figli di una cultura contadina che la modernità ha travolto e ripudiato in pochi anni. Oggi, al contrario, tutto esiste per essere consumato, dai vestiti alle macchine fotografiche, dai televisori agli elettrodomestici, ai viaggi, per non parlare dei computer e dei telefoni, della natura, dei sentimenti. Pare che il consumo sia diventato un valore, uno status symbol, un dovere civico, un modo per rilanciare l'economia del paese, un parametro di riferimento per la legislazione nazionale. Non stiamo esagerando? Voglio dire, non desidero tornare a un'economia di sussistenza come era quella del dopoguerra, ma forse sarebbe importante riflettere sul nostro ruolo di consumatori. Da parte mia, l'orgia consumistica mi ha nauseato. Mi chiamo fuori dagli appelli di certi politici che invitano a consumare. Sono stanco delle seduzioni pubblicitarie, degli acquisti compulsivi, della cieca brama di avere cose senza che esse abbiano per me un significato, nell'illusione che esse siano la felicità, mentre ne costituiscono solo il simbolo sbiadito e distorto. Anelo ad un nuovo modello di uso, non di consumo, delle cose. Immagino un nuovo stile di vita, basato sull'esigenza che gli oggetti che acquisto siano solidi, affidabili, che soddisfino bisogni profondi e non la moda del momento, che abbiano un senso. Mi immagino attorniato da meno cose, ma più durature e vere. Un abito che mi calzi a pennello e che mi duri 10 anni. Cellule fotovoltaiche sul tetto di casa per non consumare l'ambiente. Il tostapane che non si guasta dopo qualche mese. Un cellulare che ti dura 5 anni. Un Dio eterno. Una donna per tutta la vita. Perché non provarci? Camillo. Sono un impiegato dipendente di azienda privata. Ci tengo a dirlo perché ritengo che nei momenti di profonda crisi come quella in cui stiamo vivendo, il dipendente del settore privato rischia ancora una volta di subirne tutti gli effetti. e di vedere come il dipendente del settore pubblico mantenga inalterati tutti i suoi diritti e le sue tutele. Chiaramente non ne faccio una colpa al dipendente pubblico in quanto tale, ma al sistema della macchina pubblica. Se un'azienda privata attraversa momenti di difficoltà, suoi o dell'intero mercato, adotta una serie di accorgimenti, quali il riposo forzato o, nella peggiore delle ipotesi, il licenziamento per i dipendenti, ricorrendo, se può, agli ammortizzatori sociali, che a lungo andare saranno, per importo, equivalenti a dei sussidi sociali sufficienti per la sola sussistenza. Tutto questo per evitare, secondo una logica dettata dall'interesse, di sostenere dei costi impropri. Il datore di lavoro non paga infatti i dipendenti che non producono. Per il settore pubblico tutto questo non vale. È risaputo che il dipendente pubblico, non lavorando sotto il presidio del datore di lavoro, gode di maggiore discrezionalità nel gestirsi il tempo di esecuzione delle proprie mansioni e gode di maggiore libertà. Chiaramente l'insieme delle attività svolte dal settore pubblico, in molti casi, non vanno misurate in termini di redditività, ma in termini di efficienza. In Italia c'è la spesa, ma non c'è la qualità della vita che la stessa potrebbe generare. Nei momenti di crisi mi chiedo quale sia il senso di responsabilità di chi deve e può entrare nel merito delle cose importanti, e quindi sul come si spendono i soldi, sull'entità della spesa pubblica e soprattutto se ci possiamo ancora permettere tutta questa spesa. Lo Stato rischia di trovarsi a non poter garantire lo stipendio ai dipendenti pubblici, con tutto quello che ne consegue. Sono un semplice cittadino e posso sicuramente sbagliarmi, ma mi è stato insegnato che se una cosa non la puoi avere subito, perché non ne hai i mezzi, è meglio aspettare. Dino, Trento. Spettabile redazione. Vi invio una lettera aperta indirizzata al Presidente del Consiglio, al Ministro del Tesoro e per conoscenza al Presidente della Repubblica e al Ministro per lo Sviluppo Economico. La sfiducia dei risparmiatori italiani nei confronti della finanza, delle banche e del mondo politico italiano è massima. Alle gravissime crisi, Parmalat, Cirio, Bond Argentina, eccetera, non sono seguiti ad oggi reali volontà di ristoro. Anche per questo i cittadini tengono i pochi soldi sotto al materasso, non impiegandoli per far girare il meccanismo produttivo, bloccando la potenzialità espansiva del paese. In Italia la crisi sta mordendo da parecchio tempo, perché il clima di sfiducia è stato seminato. Prestare soldi allo Stato, alle imprese, con un sistema a pioggia, è deleterio per il paese. La crisi nasce anche dalla fantasia finanziaria messa in atto dalle banche e, soprattutto, da un calo vistosissimo dei consumi, dovuto alla maggiore insicurezza delle persone. Il 25% della popolazione teme la recessione più di una guerra e per indisponibilità di denaro. Forse il governo dovrebbe concentrarsi preminentemente sull'ultimo punto. Aiutare le banche, che hanno tantissime responsabilità nei default sopra accennati, lo ritengo poco corretto nei confronti di chi viene chiamato a pagare la crisi odierna da loro generata e dei risparmiatori in attesa dei fondi dormienti. Gli imprenditori italiani, troppo spesso, si sono distinti nell'utilizzare i propri guadagni in attività speculative, mattone, terreni, mercati esteri, eccetera, lasciando che le aziende divenissero obsolete dal punto di vista produttivo. Lo Stato non può indebitarsi ulteriormente per aiutarli o spendere per imprese manifatturiere che hanno fatto il proprio tempo. Calzatura e tessile verrebbero spazzate via in un mese se non ci fossero le importazioni a numero chiuso per la Cina. Gli aiuti dello Stato dovrebbero indirizzare gli imprenditori verso le produzioni del futuro: auto a idrometano, costruzione di centrali ad idrogeno, eliminazione del polietilene per sacchetti utilizzando il meterbai derivato da amidi naturali, utilizzo del solare per la produzione di acqua calda e di energia elettrica. La crisi produttiva del paese si risolverà quando le imprese impiegheranno i loro guadagni nell'ammodernamento delle industrie, chiudendo quelle non competitive e assumendo dei rischi aprendo le nuove che hanno futuro, mettendo dei soldi nei portafogli degli italiani, consentendo il recupero del fiscal drag o concedendo un'ulteriore detrazione di 20 euro mensili per spese di produzione, detrazioni che debbono essere giustificate con l'esibizione di fatture o scontrini fiscali. Quello che esce per le detrazioni rientra per la minore evasione. Gli interventi statali spesso dissanguano le casse degli stati e sono destinati a mettere in discussione anche la credibilità degli stessi titoli pubblici. Viene detto: sono garantiti dallo Stato. Ma chi garantisce lo Stato se i risparmi vanno scemando in maniera paurosa e sull'estero non si può contare in questa fase? Una veloce distribuzione dei fondi dormienti tra i risparmiatori traditi darebbe parecchio ossigeno al sistema. Orlando, provincia di Venezia, per conto dei risparmiatori Bond Argentina. Mentre il governo ha emanato una legge finanziaria che dice di voler privilegiare la lotta all'evasione fiscale, lo sviluppo, la piena occupazione e il contenimento della spesa pubblica, le scelte della pubblica amministrazione, ancora una volta dimostrano di non essere ispirate ai criteri di economicità ed efficienza e alle più elementari regole di trasparenza e buon andamento. Mi riferisco in particolare all'Agenzia delle Entrate, che ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, ha indetto già nel 2007 e nel 2008 dei mega concorsi rispettivamente da 500 e 1180 posti, con un elenco sterminato di idonei non vincitori dei suddetti per mancanza di posti messi a concorso. Va preliminarmente precisato che l'Agenzia, nell'ultimo concorso del 2008, ha posto nuovi ed elevati standard di qualità per il reclutamento di validi funzionari, tali da far conseguire all'amministrazione stessa preposta ai controlli fiscali una maggiore efficacia nella lotta di contrasto all'evasione. Infatti il regolamento concorsuale prevede, quale requisito fondamentale, la votazione minima di laurea non inferiore a 100 su 110 e il superamento delle prove con un punteggio di 24 trentesimi. Nei precedenti concorsi era di 21 trentesimi. Vorrei farmi portavoce degli interessi e delle legittime speranze di numerosissimi candidati, costituitisi in apposito comitato, che hanno superato le prime due prove con una votazione nettamente superiore a quella minima richiesta dal bando e ciò nonostante non sono stati ammessi alla successiva fase, che prevede un tirocinio presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di durata semestrale, all'esito del quale si accede a una prova orale, il cui ulteriore superamento dà, finalmente, diritto alla tanto agognata assunzione a tempo indeterminato. L'Agenzia delle Entrate ha chiesto in questi giorni il nulla osta al Ministero dell'Economia per poter espletare nel 2009, per il terzo anno consecutivo, un nuovo concorso da bandire per il mese di gennaio o febbraio, il tutto in piena crisi economica. Ma via di più, ne vorrebbe indire addirittura un quarto per il 2010. Tutto ciò appare in contrasto con situazioni che anche recentemente hanno visto privilegiare lo strumento dello scorrimento e che sono in netta controtendenza con la nuova politica finanziaria determinata dal decreto legge 112 del 2008 del ministro Renato Brunetta, che prevede, in un'ottica di risparmio di risorse finanziarie e al fine di evitare inutili sprechi di denaro pubblico, un legittimo assorbimento di risorse umane dalle graduatorie composte da idonei non vincitori dei precedenti concorsi espletati. Questo stesso decreto ha elevato da 3 a 4 anni l'effettiva vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale amministrativo. Noi aspiranti tirocinanti non chiediamo l'assunzione a tempo indeterminato, che spetta agli effettivi vincitori, ma chiediamo che ci venga concessa la possibilità di partecipare al tirocinio teorico-pratico di cui è l'articolo 7 del bando di concorso. Se l'Agenzia vuole davvero rispettare le direttive del decreto citato e della politica di risparmio del governo, non dovrebbe forse reclutare l'indispensabile personale per la lotta all'evasione dalle graduatorie già in suo possesso e non indicendo nuovi concorsi? Alessio. Una delle parole più usate nei titoli dei giornali e dei telegiornali nell'anno che si è da poco concluso è stata la parola crisi. I pilastri sui quali sembravano reggersi gli equilibri geopolitici del mondo hanno cominciato a traballare, mentre le certezze crollavano. La finanza mondiale si è scoperto essere sempre più staccata dall'economia reale, della quale dovrebbe essere al servizio. È diventata soltanto un gioco, uno strumento per creare denaro virtuale. Il prezzo del petrolio, che fino a poco fa era alle stelle, ha portato i costi delle materie prime a livelli altissimi. Le imprese hanno iniziato a non essere più in grado di far fronte alle proprie uscite e milioni di persone si sono ritrovate a perdere il proprio posto di lavoro o comunque non riescono ad acquistare la stessa quantità di beni che acquistavano in passato. Come in un fuoco d'artificio, dove ogni piccola scintilla innesca tante altre scintille, la crisi ha invaso tutti i campi dell'economia e anche la politica, che cerca di porre rimedi laddove per troppo tempo non ha guardato. Ormai la crisi c'è, è una realtà. Ma come? Bisogna interpretarla. Sicuramente ogni momento negativo della storia ha qualcosa da insegnarci e dunque anche da questo possiamo imparare molto. Possiamo forse prendere questa crisi come un tentativo da parte del mondo di educarci. Chi, come me, è nato in un paese come l'Italia e in un periodo nel quale l'economia non sembrava andare così male, possibilmente in una famiglia benestante, fino a qualche anno fa viveva nell'illusione che tutto fosse quasi perfetto. Molti si sono convinti che la ricchezza, il benessere, il consumo, il potere, il primato, fosse tutto ciò su cui bisognasse puntare. Questa crisi credo possa lasciare a tutti un messaggio fondamentale. Nessuno nel mondo può fare a meno degli altri. Non possono farlo le grandi potenze, che devono unirsi piuttosto che dividersi. E non possiamo farlo neppure noi. Siamo tutti dei piccoli pezzetti di un grande puzzle. E quando si costruisce un puzzle gigante, anche se si perde un piccolo pezzettino, il puzzle non riesce bene. La crisi che stiamo vivendo non è solamente una crisi finanziaria ed economica, è anche una crisi culturale e sociale. Basta ascoltare le notizie dei telegiornali. Si sente parlare in continuazione di violenza, di odio, di cattiveria, che spesso si dispiegano proprio vicino a noi, nelle nostre strade, nelle nostre scuole, nei nostri stadi. I grandi uomini del mondo, coloro che hanno il potere, sicuramente sono chiamati a riflettere sul loro modo di operare e a ridisegnare le loro strategie. Ma nessuno stato al mondo può essere forte, solido, sicuro, se non lo sono prima di tutto le persone che vivono all'interno dei loro confini, e quelle persone siamo proprio noi, chiamati da questa crisi a riflettere e a trovare il modo, con le nostre possibilità, di contribuire affinché si possa ricominciare a sperare e a costruire un mondo migliore. Tonin. Carissimo ascoltatore, la crisi attuale ha certamente molto da insegnarci, anche perché, pur se in maniera diversa, ne siamo o ne saremo toccati tutti. Sono in molti a pensare che da questa crisi si debba uscire ripensando quella che viene chiamata la società dei consumi, con la corsa alla ricchezza, all'esibizione, al lusso, che il più delle volte si sposa con il superfluo. Ci sono ovviamente molti aspetti degli attuali modelli sociali che portano ingiustizie e disuguaglianze. Ci sono categorie più deboli e meno difese, ci sono sprechi evidenti sia a livello privato sia nella gestione della spesa pubblica. È giusto, quindi, chiedere e operare per delle correzioni. È giusto che ciascuno di noi si impegni, ognuno al proprio posto, per una maggiore giustizia ed equità. Ma stiamo attenti a non fare di ogni erba un fascio, stiamo attenti a pensare che la storia possa fare passi indietro e che si possa tornare alla civiltà contadina. Non dimentichiamo che i consumi sono a parte del grande ciclo dell'economia, un ciclo che comprende ovviamente anche la produzione, quindi i posti di lavoro e quindi il reddito dei lavoratori. Meno consumi vuol dire meno produzione, meno reddito, meno posti di lavoro. Quello che si deve fare invece è un salto di qualità, meno sprechi da parte di tutti, più spese sociali per chi ha veramente bisogno e quindi un equilibrio tra ricchezza e solidarietà. Possiamo e dobbiamo costruire una società in cui cresca la ricchezza di tutti. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.